Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti allo speciale viaggio tra le piccole e medie imprese in Italia. Ci spostiamo in Lazio, dove uno dei punti di forza sono proprio i distretti industriali e i sistemi produttivi locali. Sono stati riconosciuti 3 distretti industriali, infatti Lapideo, della ceramica, dell'abbigliamento e 7 sistemi produttivi locali, dall'agroalimentare al cartario, alla nautica, fino all'audiovisivo a Roma, con gli studi di Cinecittà. Circa il 40% dell'export del Lazio è assicurato dai distretti, in cui operano oltre 4.500 imprese, con quasi 84.000 lavoratori. Ma oggi andiamo oltre, alla scoperta di nuove frontiere del territorio. La prima storia è quella di Sound Reef, una startup che si occupa di raccolta e gestione dei diritti d'autore, tema nevralgico in Europa e in Italia, tra competitors e regole per proteggerlo. Sound Reef è una startup tutta italiana, nata in Gran Bretagna e rientrata nel nostro paese. È stata fondata da Davide Datri, un romano che ha fatto nascere la sua idea all'estero, riconosciuta da marzo 2016 come entità di gestione indipendente dall'Intellectual Property Office del Regno Unito. Da poco è anche entrata nel network di Endeavor Italia, rete internazionale che seleziona imprenditori di valore e li aiuta a sviluppare il loro business durante la fase di espansione. Davide Datri, CEO di Sound Reef, spiega come però il terreno fertile per la sua startup sia stato, a sorpresa, proprio il Lazio. Sound Reef nasce dopo un lunghissimo percorso di studi, perché io mi appassiono a questo settore già da quando faccio l'università, da quando ero studente, e feci anche una tesi che riguardava alcuni argomenti pertinenti al nostro settore, al nostro lavoro, e poi praticamente mi sono studiato questa cosa per più di 10 anni, cioè dai 22 fino ai 31-32 che ho fondato Sound Reef. Mi sono finito di laureare, ho fatto i primi lavori in industria della musica, ho aperto la prima azienda, però ho mantenuto invariata questa passione, questo studio. Poi al 31-32 anni ho capito di essere insomma un po' più preparato professionalmente, di avere delle conoscenze, di essere in grado di recuperare investimenti eccetera eccetera, e siamo partiti con questa avventura. Ecco, l'accento tradisce, come dire, un luogo di provenienza, ecco, la sua formazione è legata al territorio, cioè dove è nato lei? Sono nato a Roma e a 19 anni sono andato a Londra, appena finito il liceo, neanche aspettato i quadri, sono andato a Londra, ho fatto l'università là e ci sono rimasto fino a quando, cioè, avevo 30-31 anni. Ecco, l'andata e ritorno Roma-Londra è ancora quella che fate adesso, l'idea però è nata, come dire, fondamentalmente sui banchi a Roma, è abbastanza strano. E certamente la mentalità imprenditoriale, la anche, diciamo, come dire, un'istruzione tecnica da un punto di vista imprenditoriale io l'ho ricevuta in Inghilterra con i miei percorsi di studio in Inghilterra, dove effettivamente, diciamo, ho fatto economia, ma a prescindere dal fatto economia c'è questo DNA imprenditoriale che ti viene effettivamente iniettato come entri, diciamo, nel territorio inglese, soprattutto se entri a 18-19 anni. Ho passato l'intera giovinezza in Inghilterra, da 19 a 30 anni, 31 anni, quindi io quando sono tornato in Italia, devo dire, sono tornato che ero praticamente, diciamo, un turista da un punto di vista. È rimasto praticamente solo l'accento, diciamo, del territorio. Chi vi ha aiutato per sviluppare questa idea? È stato un aiuto a Londra? A 31 anni, quando io ho capito di avere un po' più di conoscenza del settore, perché ero ormai anni che lavoravo in industria della musica, era già la mia seconda azienda, avevo conoscenze per trovare degli investimenti, e questo invece lo voglio dire è molto positivo, perché quando tutti gli investimenti che noi abbiamo ricevuto li abbiamo ricevuti in Italia. E infatti quando poi dopo, nel 2015, quando abbiamo fatto un altro round di investimento, io ho convinto i miei investitori a creare questa Sound Reef società per azioni, la Sound Reef SPA, che controlla il 100% della società inglese. Quindi una storia al contrario, di fatto, cioè noi abbiamo fatto acquistare una società inglese da una società italiana, perché tutti i fondi che noi abbiamo recuperato per la nostra iniziativa sono tutti italiani, di fondi di investimento italiani. Quindi questo è un bel messaggio che voglio dare, perché è possibile adesso in Italia, prima non c'era quasi nulla, adesso invece è possibile, ci sono tanti incubatori a partire da Luis Labs a Termini, che è un posto straordinario, sono tanti incubatori, tanti acceleratori, devo poter cominciare. E poi ci sono finalmente dei fondi, insomma, che effettivamente investono su startup. Ecco, ci abbiamo visto giusto, quindi il territorio laziale e il territorio romano è un territorio da cui si può partire anche per il mondo, per l'estero. Magari la formazione può essere anche trasversale, magari londinese, magari in altri paesi, però in ogni caso da noi il terreno fertile c'è, non solo per i settori tradizionali, per i distretti tradizionali. Quali sono i vostri numeri e il vostro modello di business? Ci spieghi come funziona Sunreef? Noi siamo una società, quest'anno chiuderemo circa 4 milioni e mezzo, abbiamo ricevuto, di fatturato intendo, abbiamo ricevuto circa quasi 5 milioni di euro di investimenti, siamo una società che al momento vende licenze in una ventina di paesi del mondo, l'Italia è certamente un paese molto importante per noi, abbiamo 25.000 autori a livello globale e 8.000 autori italiani, pensate che 8.000 autori italiani si sono iscritti a Sunreef negli ultimi 18 mesi, sono il 10% degli iscritti SIAE, perché noi siamo di fatto uno dei primi concorrenti delle varie SIAE d'Europa e quindi siamo un concorrente SIAE anche in Italia. E tra i nostri autori ci sono importanti artisti come Fedez, Rovazzi, Gigi D'Alessio, Maurizio Fabrizio, Nesli, che hanno lasciato la SIAE e si sono iscritti a Sunreef. Quindi migliaia di autori italiani che ovviamente sono approdati a voi. Ecco, è importante anche capire qual è stato poi il passaggio da startup a scale up, perché comunque siete ancora cresciuti. Sicuramente, diciamo, è un passaggio traumatico. Sicuramente, diciamo, è un passaggio traumatico soprattutto per le persone, perché effettivamente in Italia, diciamo, sempre che ci sta una mancanza di lavoro, eccetera, eccetera, le persone non trovano lavoro, ed è probabilmente vero, diciamo, però effettivamente in alcuni casi gli imprenditori non trovano le competenze e questo è un problema serio, diciamo. È un problema banale. Noi facciamo fatica, effettivamente, facciamo fatica prima di tutto a trovare dirigenti. Sicuramente molto difficili sono da trovare i programmatori, si trovano pochissimo, programmatori e ingegneri informatici, trovo pochissimo, si fa molta fatica e addirittura si fa fatica a trovare in settori tipo social media, che tutti quanti vogliono fare comunicazione, non capiscono che social media è un qualcosa di molto tecnico, non significa, diciamo, fare post su Facebook, è un qualcosa che ha bisogno di data analysis, ha bisogno di un approccio che è statistico, matematico. Si fa molta fatica. Certo, perché l'idea è lo smanettone, ma in realtà bisogna formarsi e avere a disposizione dei corsi e capire anche tecnicamente come devono essere eseguite determinate operazioni. Ecco, voi avete anche molta attenzione appunto ai talenti che invece trovate, cioè quale welfare avete, tra virgolette? Certamente, diciamo, quando troviamo dei talenti, quando troviamo delle persone, facciamo di tutto per trattenerle e per avere un rapporto il più lungo possibile con loro. Noi facciamo tutti i contratti a tempo indeterminato, appena possibile, se uno entra come stage, entra, diciamo, un percorso molto chiaro che è 3 mesi e poi, diciamo, un contratto a tempo indeterminato. Se l'azione continua, aumentiamo gli stipendi anno dopo anno, quindi c'è un aumento, diciamo, che non è soltanto legato, diciamo, all'inflazione, ma è un aumento vero e proprio annuale. Nel treno andata e ritorno Roma-Londra, quali sono le differenze? Lasciando perdere la storia del costo del lavoro, anche il costo del lavoro è sempre una storia abusata, sì, è vero, costa tanto rispetto ad altri paesi, però, ma non è tanto quello, è proprio quanto è burocratico tutto ciò che è intorno all'assunzione e alla gestione di un dipendente. Diciamo, noi vediamo Londra-Roma, Londra molto semplici le assunzioni e tutto ciò che riguarda, diciamo, la gestione del personale. Vediamo proprio un abisso, cioè in Italia noi abbiamo praticamente 2 persone che stanno appresso al personale, in Inghilterra 0. La seconda storia è quella di un nuovo inedito distretto del gioiello, nato in Lazio, a Frosinone, da un piccolo laboratorio artigianale, Boccadamo. Un distretto costruito mattone su mattone da Tonino Boccadamo, che dà nuove prospettive di lavoro sul territorio e valorizza i talenti. E da poco è stata fondata anche la scuola Orafa per ragazzi diversamente abili, dal nome Il Valore del Gioiello, attraverso la fondazione Tonino Boccadamo. Lui, che fin da giovane ha coltivato questa passione. Una costruzione di un castello di sogni che mano a mano, un mattoncino dopo l'altro, si venivano a realizzare. io inizio senza solo per una passione e senza questa mira, senza questo scopo, a creare delle piccole gioie ancora che andavo a scuola, nei banchi di scuola. Aveva già la passione del gioiello in giovane età, quindi lei come ha fatto a coltivarla? Iniziavo a fare delle piccole creazioni di monili, bijou, di pietre dure, vuoi per colpire l'amica del momento, vuoi perché la mia emozione era quella di dare emozioni proprio. Lei ha sempre vissuto nel Frosinate? Io sono nato a Frosinone per un periodo di circa 6 anni, nei primi anni del 90 ho fatto un laboratorio a Valenza di orificeria, dopodiché il desiderio era quello sempre di poter riuscire a creare questo distretto a Frosinone, nella terra appunto dove io sono nato e sono amante del mio territorio. Ho creato nel 98 la nuova struttura, cambiando la tipologia di produzione da oro a argento, da bijou fashion. Il territorio che cosa produceva normalmente? Perché è nuovo questo distretto del gioiello che lei ha creato? Il Frosinate è un mix di tipologie merceologica, dato dal fatto che era il limite della Cassa del Mezzogiorno, quindi soprattutto le seconde industrie dei grandi investitori del nord che venivano nel Frosinate, in una terra prettamente contadina, agricola, per installare le seconde industrie con le agevolazioni fiscali statali. Certo, quindi era il territorio di seconde sedi di diversi settori, vari. Molto misto, dal chimico al metallurgico, edile, eccetera. Chi vi ha aiutato chi ha aiutato lei per diventare un'impresa? Non abbiamo avuto aiuti, abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo costruito una scuola orafa per poter così insegnare questo mestiere che era totalmente sconosciuto qui. Le prime leve sono state tolte alle botteghe orafe artigiane. Avete reinvestito i vostri capitali? Quanta iniezione di denaro avete dovuto mettere per far partire l'azienda? Nel 98, quando iniziamo l'avventura a Frosinone con il nuovo stabilimento di circa 2000 metri quadrati, investiamo 2 miliardi di vecchie lire. Qual è il vostro modello di business e soprattutto come avete fatto il salto, diciamo, dal Frosinate al mondo? Il salto è stato fatto quando dalla produzione e alla grossa distribuzione in anonimo investiamo nel brand nel 2006. Con il nome suo, Boccadamo? Con il nome mio personale, Boccadamo, esatto. Esportate con quali paesi avete a che fare? Abbiamo iniziato l'internazionalizzazione e questo è il terzo anno. È stato impegnativo e importante, ma sorprendentemente non difficile. In Mongolia, Stati Uniti, Europa, il prodotto sta piacendo tanto. Questa e altre storie in anteprima, inedite in versione long, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina di programma Voci d'Impresa e curiosando nella sezione Extra, dove potete scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa e il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.